Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Aprile si conferma il crollo delle vendite al dettaglio, meno 10% secondo l'Istat, grazie alla tenuta dei beni alimentari. Si impenna il commercio online, più 27%. Scuola seduta a oltranza alla Camera per superare l'ostruzionismo dell'opposizione sul decreto per precari e edilizia. Allagamenti nella notte nel bolognese, strade come torrenti e danni soprattutto nelle zone montane. Si celebra oggi la giornata dell'ambiente, i ragazzi di Fridays for Future tornano in piazza con flash mob simbolici, la ripartenza, chiedono non sia un ritorno al passato ma un salto verso un nuovo mondo. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, dunque ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Oggi, come avete sentito, si celebra la giornata dell'ambiente, tornano le manifestazioni con flash mob simbolici dei ragazzi di Fridays for Future, nello stesso giorno in cui tra l'altro assistiamo a piogge torrenziali con danni nelle zone montane di Bologna e anche a un disastro ambientale invece all'estero, in Siberia. Oggi anche seduta alla Camera per il voto sul decreto scuola, tanti gli emendamenti proposti dall'opposizione al decreto precari edilizia. Partiamo allora da qua, sentiamo. Una seduta fiume, una corsa contro il tempo per approvare il decreto entro domenica, appena la sua decadenza. Tutto questo in un clima di forte scontro tra la maggioranza e l'opposizione, che punta con l'ostruzionismo a far saltare il provvedimento contenente le misure per il ritorno sui banchi in sicurezza e per la regolarizzazione dei precari. Un incidente di percorso che potrebbe rappresentare un primo passo per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione Azzolina ed eventualmente innescare una crisi di governo. 180 gli ordini del giorno presentati, di cui i due terzi del centrodestra, 172 gli iscritti a parlare. L'opposizione, che contesta la seduta non stop, avrebbe voluto sfruttare per dilatare i tempi anche l'arma della sanificazione dell'aula, inizialmente prevista per 3 ore, ma che la riunione dei capigruppo ha invece ridotto a 40 minuti. E intanto ieri la ministra Azzolina ha annunciato per la scuola risorse aggiuntive per un totale di oltre 4 miliardi di euro. Da settembre si tornerà in presenza, assicurato il ministro, tra le ipotesi visiere al posto delle mascherine per mantenere la socialità e garantire gli studenti disabili, ma anche pannelli di plexiglass per assicurare il distanziamento tra i banchi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di scuola, ma anche della giornata dell'ambiente, parleremo ancora a lungo nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso ancora avanti con la politica, perché c'è anche il decreto legge rilancio con la maggioranza che si presenta però in ordine sparso. Ci sono oltre 10.000 emendamenti già depositati, molti dei quali arrivano proprio dalla maggioranza. È un assalto alla diligenza con una maggioranza divisa, quella all'esame del decreto rilancio. Sono circa 8.000 gli emendamenti presentati in commissione bilancio alla Camera. Prima si era parlato di circa 10.000, ma le proposte di modifica sono comunque un record per quanto riguarda i provvedimenti economici. Per la maxi manovra da 55 miliardi la maggioranza viaggia in ordine sparso. PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, ma non tutta l'EU, condividono l'idea di estendere alle seconde case il super bonus al 110%, mentre PD, Italia Viva e LeU vogliono gli incentivi per l'auto, ma i 5 Stelle sono totalmente contrari. LeU insiste sul taglio IRAP per le imprese che abbiano subito perdite nell'emergenza. Dall'opposizione la Lega vuole lo sblocco per gli investimenti ANAS e la rete ferroviaria e anche il sostegno alla stampa locale. Fratelli d'Italia chiede invece che spariscano bonus e amenità inutili e chiede anche che le riunioni col governo si facciano in streaming. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo ai dati Istat sull'andamento economico, con le vendite al dettaglio nel mese di aprile che sono calate, anzi c'è stato addirittura un vero e proprio crollo durante il lockdown, vendite che hanno tenuto soltanto grazie all'andamento poco più che positivo dei beni alimentari. Tutto il resto è andato molto male. Dal punto di vista della distribuzione, soltanto il commercio online segna un passaggio positivo, molto positivo. Sentiamo. A causa del lockdown, ad aprile le vendite al dettaglio in Italia hanno registrato una nuova flessione, oltre il 10% in meno rispetto al mese precedente e del 26% su base annua, fa sapere l'Istat. Il forte calo, dovuto alla chiusura di molte attività per l'emergenza Covid, ha pesato soprattutto sulle vendite di beni non alimentari, meno 24%. Per il cibo si registra invece un lieve aumento dello 0,6%, mentre a crescere in modo più deciso è il commercio online, che segna un balzo del 27%. Nel suo report sulla vita quotidiana, l'Istat ha fotografato anche i cambiamenti nelle abitudini degli italiani durante la fase 1. In una giornata tipo hanno lavorato circa 8 milioni e 400 mila persone e di queste 3,7 milioni lo hanno fatto da casa. Durante il lockdown, un italiano su tre si è svegliato più tardi, uno su cinque ha dormito di più. La tavola è poi tornata a riunire le famiglie anche nei giorni feriali e un quarto degli intervistati dichiara di aver mangiato di più. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi, dicevamo, si celebra nel mondo la giornata dell'ambiente. Anche in Italia tornano i ragazzi di Fridays for Future con manifestazioni e flash mob simbolici e nelle piazze, dove sapete non è possibile creare assembramenti, insomma, per chiedere però che questa ripartenza dopo il coronavirus diventi l'occasione per un cambiamento. Il fiume Ambarnaya in Siberia è rosso per le oltre 20.000 tonnellate di carburante finite in acqua e spinte ora dalla corrente verso il mare, una massa oleosa e densa che sta uccidendo la fauna e rischia di lasciare senza acqua potabile la città di Norilsk, già conosciuta come una tra le più inquinate al mondo. Al momento risulta contaminata un'area di 350 km quadrati. L'incidente è avvenuto il 29 maggio, ma l'allarme è stato dato in ritardo di giorni. Il presidente russo Putin ha proclamato lo stato d'emergenza e si cerca di correre ai ripari con una diga galleggiante. Sarebbe stato lo scioglimento del permafrost a causare il crollo dei pilastri sui quali poggiava la piattaforma di contenimento dei carburanti, un'attenzione mancata all'ambiente di cui oggi si celebra la giornata mondiale. Per questo nel pomeriggio tornano in oltre 30 piazze italiane anche gli studenti di Fridays for Future. In alcune città i ragazzi si muoveranno in bici, in altre occuperanno le piazze simbolicamente lasciando a terra le loro scarpe. Tanti i temi, a partire dall'aumento dell'utilizzo di prodotti usa e getta come guanti e mascherine, ma anche la richiesta di un utilizzo dei fondi previsto per la fase 2 a tutela dell'ambiente. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di ambiente, la scorsa notte nel Bolognese ci sono state una serie di allagamenti ma anche di smottamenti, danni principali nelle zone montane intorno a Gaggio e Porretta Terme, ed è notizia tra l'altro di poco fa che c'è stata una ulteriore frana. Ci aggiorna su tutto Valentina Furlanetto in diretta. Valentina. Sì, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Il maltempo ha colpito pesantemente la Toscana, l'Emilia-Romagna, anche la Campania in parte. Come tu dicevi, la zona di Bologna è stata molto colpita, un forte temporale nella notte ha fatto diventare torrenti di fango e acqua le strade di Bologna, danni specialmente nelle zone intorno a Gaggio, Castiglione dei Tepoli e Porretta Terme. Diverse aziende stamattina erano completamente allagate e anche un paese è stato travolto da fango e detriti. Nella frazione di Molino del Pallone, territorio del comune di Alto Reno Terme, è la situazione più critica per questi danni del nubifragio della notte scorsa. Qui uno smottamento ha ostruito un tratto del fuori Reno e l'acqua che è fuoriuscita ha invaso il paese con fango e detriti. Vedremo nelle prossime edizioni quali sono i danni. Per chiudere, a Benevento un vento molto forte ha costretto il sindaco a disporre la chiusura dei parchi e di un cimitero. Per ora è tutta della linea. Grazie Valentina Furlanetto. Adesso ancora con la cronaca ci spostiamo nel Varesino, dove ci sono stati due arresti, avrebbero rivenduto strumenti per la terapia intensiva dell'ospedale di Saronno. Nelle immagini della Guardia di Finanza si vedono materiali finire in grossi scatoloni trasportati poi fuori dall'ospedale e caricati in macchina. In manette una dirigente dell'area logistica della farmacia dell'ospedale di Saronno e un imprenditore di Barlassina in provincia di Monza e Brianza. L'accusa per la donna è di aver gonfiato gli ordinativi di dotazioni per intubare i pazienti per poi farli sparire, consegnandoli ad un imprenditore che li avrebbe rivenduti ad altri ospedali. I reati contestati arrestati sono peculato in concorso e per l'imprenditore anche autoriciclaggio. A far scattare le indagini e la segnalazione in autunno di manovre sospette da parte di un dirigente delle aziende sociosanitarie territoriali Valle Olona. L'attività, secondo gli investigatori, sarebbe proseguita anche durante i mesi dell'emergenza sanitaria. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un'altra notizia di cronaca arriva da Milano, dove c'è stato un maxi sequestro di beni, tra questi beni anche quadri di Picasso. Pensate, questo maxi sequestro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza a carica di un italiano, già condannato a 10 anni e 7 mesi per frode fiscale. Il valore complessivo del sequestro, oltre 20 milioni di euro. E adesso invece ci occupiamo della questione confini europei, facciamo il punto su quali sono i paesi dai quali è possibile e verso i quali è possibile spostarsi. Oggi è prevista tra l'altro una riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea su questo, sentiamo. Dal 15 giugno non ci sarà più alcuna allerta nei confronti dei viaggi per l'Italia. Bisogna uscire dalla crisi in maniera congiunta. Così il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas in conferenza stampa a Berlino con Luigi Di Maio. Una scelta di lealtà e trasparenza che apprezziamo e che è conforme all'attuale stato di salute del paese. Il commento del titolare della Farnesina. Diversa la posizione dell'Austria, che da oggi riapre le frontiere con i paesi vicini, ma non con l'Italia, così Di Maio. Dobbiamo avere un approccio europeo nello spirito europeo. Proprio in questi giorni i contatti con il collega Alexander Schallenberg sono continui. Dopo Berlino, il ministro italiano sarà domani in Slovenia, martedì in Grecia, sempre per fare il punto su turismo e confini. Atene riaprirà infatti il 15 giugno, quando tutti gli stati europei dovrebbero riaprire, ma con restrizioni per i turisti italiani, così come la Svizzera. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stasera alle 19:30 la musica e lo spettacolo tornano anche loro dal vivo dopo il lockdown. Lo faranno ripartendo da Piazza del Popolo a Roma, location dove andrà in scena Vivi Live, simulazione pratica di spettacolo dal vivo. L'iniziativa infatti è dedicata ai lavoratori legati all'industria dello spettacolo. Tra gli ospiti Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Maurizio Battista. 13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie, parleremo come anticipato di questa giornata dell'ambiente, sarà con noi Enrico Giovannini, presidente dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, nonché membro della Task Force Colao sulla fase 2. E poi alle 13:30, ve lo anticipo, parleremo ancora di scuola nella giornata in cui alla Camera va in scena una seduta a oltranza per il voto sul decreto scuola, ma ci sono già le prime notizie su come si intende riaprire a settembre. Lo avete sentito, plexiglass, visiere, mascherine, si cercherà di fare stare tutti a scuola, ma in queste condizioni. Ne parleremo col segretario generale della CGIL scuola dopo le 13:30. Adesso pausa, torniamo tra un attimo. 349-238-6666. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Seduta a oltranza alla Camera sulla scuola con l'ostruzionismo dell'opposizione, all'esame il decreto su precari ed edilizia. Ad aprile si conferma il crollo delle vendite al dettaglio, meno 10% secondo l'Istat, grazie alla tenuta dei beni alimentari si impenna il commercio online, più 27%. Materiale ospedaliero rivenduto sul mercato, in manette a Varese una dirigente dell'ospedale di Saronno e l'amministratore di una società medica. Si celebra oggi la giornata dell'ambiente, tornano in piazza i ragazzi di Fridays for Future, chiedono che la ripartenza dopo il coronavirus non sia un ritorno al passato. Effetto Giorno, ne parliamo con Enrico Giovannini. Tredici e 15 minuti, ripartiamo proprio da qua, dalla giornata mondiale dell'ambiente, prima di parlarne con il presidente dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, nonché membro della Task Force Colao. Vi raccontiamo questo spicchio di storia e l'anticipo di un reportage che andrà in onda domenica mattina alle 8:15, dedicato proprio ai cambiamenti climatici e alle emergenze idriche, in particolare nel bacino del Po. Le piogge cadute al nord stanno riportando i fiumi ai livelli di stagione, ma la situazione potrebbe presto tornare a peggiorare. I problemi legati ai lunghi periodi di siccità continuano a preoccupare tutte le filiere agroalimentari in vista dell'estate. Allora sentiamo Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità del bacino del Po, al microfono di Enrico Pagliarini. Allora, dall'ultimo osservatorio che abbiamo riunito all'inizio di maggio, devo dire che la situazione è molto migliorata grazie alle ultime piogge. Infatti oggi, mentre stiamo parlando, stiamo registrando un aumento del livello della portata del fiume che si attesta, diciamo, circa alla media del periodo dal 1924 al 2000. Quindi siamo in una situazione di non criticità. Quindi la situazione non è critica, ma significa questo che l'acqua è sufficiente per le esigenze estive? No, non è sufficiente. Infatti, proprio per questo noi riuniamo l'osservatorio mensilmente in questo periodo e ogni 15 giorni facciamo, diciamo, una verifica di tutti i dati. La quantità di acqua che è caduta in questi giorni e la portata del fiume in questo momento ci consente di andare avanti per 15 giorni da oggi mentre stiamo parlando senza problemi, però poi bisognerà vedere le prossime previsioni, cosa ci daranno e a che punto siamo della coltivazione, della situazione irrigua e del fabbisogno di acqua, perché non è detto che riusciamo ad arrivare sino in fondo. Reportage in onda, ve lo ricordo, domenica mattina alle 8:15 su Radio 24. Adesso invece, come anticipato, è con noi, lo ringrazio per aver accolto il nostro invito, Enrico Giovannini, buongiorno. Buongiorno. Allora Giovannini, questa giornata per l'ambiente cade in un momento davvero particolare e forse per due ragioni opposte. Da un lato l'emergenza coronavirus ci ha fatto percepire l'emergenza ambientale in un modo diverso, forse secondario rispetto ai problemi per la salute delle persone che sono state invece, diciamo, prioritari sin qua. Dall'altro, proprio questo tsunami che ci è caduto addosso sembra un po' da parte di tutti invocare un ripartire in modo nuovo, in modo diverso, sfruttare questa occasione per scegliere in che direzione andare. Qui le priorità ambientali potrebbero essere importanti, il tema delle materie prime, del consumo di materie prime, di un'economia circolare che si metta in moto veramente, di un'economia che non si inceppi come è accaduto per esempio a molti aspetti dell'economia finanziaria con crisi del passato e ancora oggi. Io la prima domanda che le faccio è questa: quale visione della società, dell'economia esce fuori rafforzata in questo momento, quella di una necessità di rincorrere una ripartenza per tornare a produrre e dare comunque opportunità a tutti, diciamo, di avere uno stipendio alla fine del mese, tanto per usare un termine molto semplice e brutale, oppure davvero un momento nel quale scegliere in che direzione andare? Certamente è la seconda, ma non è contraddittoria con la prima. L'altro giorno, in uno degli eventi organizzati come Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'amministratore delegato dell'Enel ha una domanda analoga, ha un po', mi permetto di fare lo stesso, rimbrottato il giornalista dicendo: ma se pensate ancora che ambiente e economia siano in contrasto, vuol dire che non avete una piena consapevolezza di come la tecnologia dei materiali, la tecnologia energetica abbia cambiato il trade-off, cioè l'alternativa. I dati dell'Istat dell'anno scorso mostrano che le imprese con oltre 50 addetti di grandissime dimensioni che hanno scelto lo sviluppo sostenibile rispetto alle altre fanno il 15% di produttività in più, il 10% se sono di grandi dimensioni e il 5% se sono di medie dimensioni. Posso fermarmi quindi su questo aspetto, Giovannini, perché mi sembra importante. La giornata oggi non dovrebbe essere solo la giornata dell'ambiente, sì, ma spero che diventi la giornata dell'economia ecologica. Certo, no, coniugare assolutamente le due cose, certo è l'ambizione di tutti, è un momento nel quale in tanti fanno proprio i conti con l'arrivare alla fine del mese, ecco perché si cerca certo. comunque di ripartire in ogni caso, ma il punto che mi sembra interessante è questo 15% di produttività in più per le aziende che hanno investito in sostenibilità, come lo definirebbe un effetto collaterale del fatto che la sostenibilità richiede investimenti in tecnologie, quindi migliora l'efficienza delle aziende o anche proprio per un consumo energetico diverso, per un'ottimizzazione delle risorse, come arriva questo 15% in più? Decidendo di abbattere i costi del 70-80% dei costi totali, che sono quelli non del lavoro, cioè attraverso l'economia circolare si può riutilizzare le cosiddette materie prime e seconde. Si possono abbattere i costi energetici attraverso una maggiore efficienza, ma la sostenibilità di cui stiamo parlando, e i dati Istat lo indicano chiaramente, è anche una sostenibilità sociale, e cioè si investe sulla formazione del personale, sul welfare aziendale, che stimola anche la produttività delle persone. Insomma, niente più del modello olivettiano di cui ogni tanto parliamo, cioè di un'impresa che non guarda solo alla riduzione dei costi come unico criterio di guida. E sappiamo che il capitalismo che abbiamo realizzato negli ultimi 40 anni, molto basato su questi aspetti, è un capitalismo fragile, come lei ha giustamente ricordato prima, perché non investe in ridondanze, cioè in durabilità, direbbero i francesi, ma tutto nel breve termine deve essere ottenuto. Questa trasformazione, ci dicono i dati Istat su migliaia di imprese, non è un sondaggio, produce risultati economicamente vantaggiosi. E poi l'altro elemento è la finanza sostenibile. Prima di questa crisi, ormai le grandi case finanziarie internazionali, ma anche le banche italiane, andavano in questa direzione, utilizzando i famosi criteri ESG, Environment Social Governance. Ma lei pensa, e io credo di no, che dopo una botta di questo tipo, per usare un linguaggio tecnico, le imprese finanziarie sceglieranno progetti di investimento rischiosi da questi punti di vista? Io credo che, essendo cresciuta la percezione del rischio complessivo che i nostri sistemi corrono, la finanza andrà verso imprese che proporranno progetti proprio nella direzione della sostenibilità. E questo potrebbe essere un vantaggio in questa fase. Senta, Giovannini, lei è anche membro del comitato, la task force guidata da Vittorio Colao. Le chiederei se ci può fare anche un aggiornamento a che punto è questo lavoro della Commissione, tenendo conto che da parte dell'opinione pubblica più semplice a volte non si riesce ad afferrare il senso di tutte queste commissioni, però anche da parte di alcuni commentatori più parte dell'establishment, giornalisti anche affermati, economici, economisti, cominciano a avere il dubbio che queste commissioni stiano servendo anche, come dire, al governo per fare un po' un gioco delle tre carte, per non, come dire, per prendere tempo e magari non decidere. Al netto di queste osservazioni, a che punto è il lavoro della Commissione Colao? Siamo ormai in dirittura d'arrivo, parliamo veramente di ore, quasi, come è stato anche scritto. Devo dire che alcuni giornali, alcuni siti web hanno scritto veramente tutto il contrario di tutto. Evidentemente bisogna scrivere e quindi uno inventa le cose. Le posso dire però un elemento importante che finora i famosi commentatori di cui lei parla non hanno forse colto. Quando un governo si affida ad esperti esterni, tra l'altro gratuitamente, come giusto che sia, e lo fanno tutti i governi, e questa affidarsi per idee, non per decisione, le decisioni le devono prendere i governi, può anche essere dovuto alla debolezza delle strutture della pubblica amministrazione. E nel caso dell'Italia, purtroppo, in parte è così. Vorrei ricordare che la pubblica amministrazione italiana ha l'età media più alta di tutti i paesi OCSE, ha un'immissione di giovani con competenze tecniche, non amministrative, molto limitata, e quindi di fronte a una crisi sistemica di questo tipo non è sorprendente che un governo chieda a soggetti anche esterni alle pubbliche amministrazioni il loro punto di vista. Il giudizio di queste task force va fatto su quello che producono. Noi siamo partiti il 10 aprile, che ricordo essere venerdì santo, se ricordo bene. Abbiamo iniziato sui primi 10 giorni a lavorare sul tema delle riaperture, dando al governo una serie di idee, di parametri su cui poi assumere le decisioni per le riaperture, e in un mese ci siamo dedicati a lavoro che appunto leggerete a brevissimo e ci giudicherete sulla base dei risultati. Ci sarà un rapporto leggibile pubblico comunque? Sì, penso di sì, ma noi rimettiamo naturalmente il nostro rapporto al Presidente del Consiglio, che deciderà cosa fare del rapporto, come è normale in queste situazioni. Assolutamente. Senta, dato che comunque questo lavoro non è ancora terminato, il rapporto non è ancora pubblico, quindi non le chiedo di fare delle anticipazioni, ma dal suo punto di vista, se lei dovesse anche suggerire un progetto come esperto di sostenibilità al governo, tenendo conto che in passato spesso a fare la differenza sono stati progetti singoli, non progetti diciamo ad ampio respiro, che potevano magari sembrare più ad ampio respiro. Penso in Germania al programma dei 100.000 tetti di Berlino, è stata riempita la Germania di pannelli solari, la Germania è diventata il primo operatore al mondo, o al ruolo, non so, delle nuove tecnologie in America avuto dalla NASA, da piccoli centri di ricerca che poi hanno dato il via. Ecco, lei in questo momento c'è un progetto, uno sul quale direbbe scommettiamo per ingranare la marcia della sostenibilità in Italia? Purtroppo no, anche se ora le rispondo, perché il tema è della crisi che stiamo vivendo, una crisi sistemica, ed è una crisi che richiede una trasformazione profonda. Come ASVIS abbiamo fatto molte proposte, e qui le dico una cosa che forse la deluderà: se io potessi, tra le cose che farei, l'ho detto anche ieri in una commissione alla Camera, sarebbe quella di istituire presso la Presidenza del Consiglio un istituto per la programmazione strategica e l'anticipo del futuro. Dice, che c'entra questo? Beh, perché ci sono molti paesi, e l'Unione Europea e l'OCSE suggeriscono a tutti i paesi di fare una cosa del genere, che studiano, mettendo in rete le persone che lavorano già nei centri di ricerca e così via, per tentare di anticipare il futuro. Sì, sì, ma guardi, quello che non mi delude per niente, perché invece i programmi a cui mi riferivo io sono tutti programmi di emanazione pubblica, perché chiaramente per avere questo tipo di strategia non si può chiedere a un privato di lavorare per un progetto a 10 anni, a 15 anni, mentre lo Stato lo può fare. Sì, ma questo è proprio un luogo in cui si cerca di fare scanning sul futuro, cioè di indagare su quali sono i rischi ma anche le opportunità. Dicevo Singapore, Dubai, la Francia, l'Inghilterra, insomma tanti paesi hanno questo tipo di struttura. E questa crisi, che tra l'altro ha colto un paese nel quale il piano antipandemia era del 2006, poi aggiornato per modo di dire negli anni successivi, un paese che investe pochissimo negli studi sul futuro, quando invece sappiamo, per un'impresa, per anche noi individui, se vuole una famiglia, che proprio cercare di capire come potrebbe andare il futuro per cogliere le opportunità o difendersi attraverso le assicurazioni è fondamentale. Ed è abbastanza interessante che nella nuova Commissione europea uno dei vicepresidenti della Commissione è stato incaricato da Ursula von der Leyen proprio di portare questo tema a livello politico, e proprio nel tweet di giorni fa hanno annunciato che pubblicheranno il primo rapporto per pensare alla strategia per l'Europa in questi termini. Io la ringrazio, Enrico Giovannini, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E allora, adesso, prima di andare in pausa di nuovo con le informazioni di borsa, riapriamo una piccola finestra sulla app Immuni, di cui abbiamo parlato ieri, perché lunedì ci sarà il debutto su scala nazionale, e ieri abbiamo parlato soprattutto della parte tecnologica, informatica, ma c'è tutto un contesto sanitario che, come dire, apre ad altre perplessità. Parte da lunedì la sperimentazione dell'app Immuni in 4 regioni e fra 2 settimane sarà attiva in tutto il paese. Ma di tamponi, soprattutto nelle regioni più colpite, se ne fanno pochi. È uno strumento indispensabile per la fase 3. Rischia di partire senza l'indispensabile supporto dei dati. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Il periodo 18 maggio-3 giugno complessivamente fa registrare una riduzione complessiva sul territorio nazionale del 6% dei tamponi diagnostici. Questo purtroppo è un problema non piccolo. Ieri la Commissione Igiene e Sanità ha accolto quella che era la nostra richiesta di definire un numero minimo di tamponi per 100.000 abitanti per mettersi tutti sulla stessa linea, diciamo, di aggressione in termini, diciamo, di tracing sul virus. La capacità di processare tamponi da parte delle regioni, come riferito dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, dovrebbe aumentare a breve grazie all'approvvigionamento dei reagenti già effettuato. E il sistema potrebbe andare a regime anche puntando sull'acquisto di macchinari a circuito aperto, che consentano cioè l'uso di reagenti autoprodotti sull'esempio del Veneto. Ma le incognite sul contact tracing sono anche altre. Per essere efficace, l'app andrà infatti scaricata da almeno il 70% della popolazione e nel momento in cui un cittadino scopre di essere positivo, dovrà poi anche concedere il suo consenso all'operatore a usare questa informazione per segnalare il suo caso e avvertire le persone incrociate nei giorni precedenti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:31, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666, parleremo di scuola tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Scuola seduta a oltranza alla Camera per superare l'ostruzionismo dell'opposizione sul decreto per precari ed edilizia. Per il ritorno a settembre tutti in classe ma con barriere di plexiglass e visiere, propone il governo. Critici sindacati, ne parliamo tra poco con il segretario della CGIL Scuola. Ad aprile si conferma il crollo delle vendite al dettaglio, meno 10% secondo l'Istat grazie alla tenuta dei beni alimentari, cresce solo il commercio online. Si celebra la giornata dell'ambiente, i ragazzi di Fridays for Future tornano in piazza. 13:36, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Andiamo dritti verso il punto del vice direttore del Sole 24 Ore, prima di parlare tra poco di nuovo di scuola. Il punto di Alberto Orioli. Preparatevi, riparte il duetto MES sì, MES no. Per i 5 Stelle come la TAV, va de retro. Per il PD di Zingaretti è un'opportunità e con lui anche l'EU e Italia Viva. Del resto garantisce 36 miliardi e fa risparmiare quasi 600 milioni l'anno di interessi e per 10 anni. Il tema però è un altro. Tanti denari per fare cosa? Innanzitutto un investimento massiccio nelle scienze della vita. Un nuovo impulso per l'assistenza ai malati cronici nell'Italia della longevità, che solo in apparenza è un'eterna giovinezza. Ci sono ospedali da rifare, presidi sul territorio da rifondare, assistenze domiciliari da rafforzare perché la sola via dell'ospedalizzazione d'eccellenza non è stata la strada migliore. L'obiettivo è anche stabilizzare i 23.000 sanitari assunti per l'emergenza Covid, ma soltanto con contratto a termine, e la sanità si fa con le persone. Solo così può tornare una nuova normalità, anche perché si è bloccato tutto. 500.000 interventi rinviati, milioni di visite posticipate, e dal Covid anche un duro colpo alla preziosa routine della prevenzione oncologica. Bene, ha davvero senso fare le crociate contro il MES. E allora, come anticipato, è con noi Francesco Sinopoli, segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Sinopoli, lei ieri era uno tra i collegati a questa, diciamo, a questo tavolo, a questa riunione, che riguarda che cosa? Il futuro di 7 milioni di studenti circa in Italia. Insomma, i numeri a spanne, ma riguardano dalle scuole materne alle elementari, le medie, le superiori e quant'altro. Un mega tavolo, governo, enti locali, associazioni, sindacati naturalmente, per capire come, quando e come riaprire la scuola. Da quello che si è capito, c'è stato una specie di cambio di passo da parte del governo, non più che non ha puntato più sulla didattica a distanza per settembre per aumentare la rarefazione all'interno delle classi scolastiche, ma ha detto cerchiamo di mandare tutti in classe, però a quel punto con quello che è uscito poi sui giornali, che ha lasciato tutti un po' di stucco: barriere di plexiglass, visiere, divisioni, mascherine tutto il tempo, cose che hanno, come dire, lasciato perplessi molti sul fatto come si fa a fare scuola, interazione, comunità tra i bambini in queste condizioni. E intanto le chiedo cosa è emerso ieri, oltre a questo aspetto che mi sembra però non secondario. Ma ieri è emersa la consapevolezza da parte di tutti gli attori della necessità di ripartire con la scuola a settembre, e farlo però sulla base di investimenti che riteniamo indispensabili se vogliamo garantire il distanziamento, peraltro investimenti che servirebbero alla scuola anche a prescindere dal distanziamento fisico. L'idea di avere delle classi più adeguate ai bisogni di apprendimento non è nuova, è un'esigenza della scuola italiana, quindi noi abbiamo interpretato quel confronto cercando di porre il tema della necessità e dell'opportunità che ci si presenta. Devo dire che la conclusione della ministra ha lasciato stupiti anche noi. Stiamo dicendo da alcune settimane che c'è un ritardo del governo rispetto alla scuola, un ritardo che abbiamo iniziato a denunciare fin dall'inizio di questa emergenza. È l'unica attività praticamente che non ha ancora date e modi certi di riapertura. E noi crediamo che questa discussione che è stata fatta ieri per la prima volta si potesse fare anche un mese e mezzo fa. Adesso è chiaro che c'è una curva pandemica da seguire e noi ci atteniamo naturalmente alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, ma sul come riaprire la scuola evidentemente si poteva essere più pronti. Adesso che cosa stupisce? Esattamente quello che lei ha detto prima. Se la soluzione è il plexiglass e quindi dobbiamo peraltro scommettere sul piano A che il Covid non sia più aggressivo come prima, adesso abbiamo scherzato, quindi non servono investimenti. No, non solo, mi scusi Sinopoli, ma se dobbiamo scommettere sul plexiglass, allora potevamo tornare in classe anche adesso, perché il plexiglass sicuramente ci protegge, però... Si poteva, naturalmente, guardi, le confermo, siamo rimasti molto stupiti. La mia impressione, la valutazione che noi facciamo, è che il governo non abbia previsto alcun tipo di stanziamento aggiuntivo per la riapertura delle scuole. Perché, come è stato evidenziato, le assicuro, da tutti gli attori, non solo dal sindacato, le risorse del decreto rilancio non sono minimamente sufficienti per gli interventi che tutti hanno chiesto. Perché allora facciamo chiarezza su questo, visto che è in votazione proprio oggi, l'opposizione fa ostruzionismo, il decreto governo scuola, punta su questo. Ecco. No, oggi è in votazione il decreto scuola, non sì. Il decreto. No, scusi, il decreto scuola, sì, esatto, però facciamo chiarezza sul fatto che ci sono dei fondi, no, che vengono annunciati. Allora poi voi dite non ci sono fondi invece per il rilancio a settembre. Quanto è stato stanziato per il rilancio? Per la riapertura. Nel decreto rilancio ci sono 1,4 miliardi. Per cosa? Il punto qual è? 1,4 miliardi che sono dedicati in parte all'edilizia, una parte all'acquisto di materiale per le connessioni. Insomma, quello che manca però, sì, che è stato evidenziato ieri, è uno stanziamento che preveda un organico di potenziamento. Così. Ma l'assunzione dei 16, cioè la stabilizzazione dei 16.000 precari, l'assunzione dei nuovi 16.000, quella cosa non c'entra nulla perché? Stiamo parlando di posti che erano già previsti. Però ci sono anche delle assunzioni straordinarie ai nostri microfoni, no, guardi, il viceministro Ascani qualche giorno fa. Adesso non ricordo esattamente la cifra, guardi, ma se non ricordo male, 12-16.000 straordinari. Allora, noi abbiamo un concorso ordinario per 24.000 posti, un concorso riservato per altrettanti posti, a cui poi ne hanno aggiunti, se non sbaglio, 8.000 più 8.000. 16, ma esatto. questi posti sono comunque già occupati da lavoratori precari che garantirebbero lo stesso l'offerta didattica, ma non sono stabili. È un'altra cosa. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che se vogliamo, seguendo peraltro le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, far ripartire la scuola in presenza, sì, innanzitutto guardando all'infanzia e alla primaria, che non hanno beneficiato in alcun modo della didattica a distanza, non che non ci sia stata, ma che evidentemente non poteva produrre degli effetti per le bambine e per i bambini, si è mantenuta una relazione educativa, si è fatto quello che si poteva. Noi dovremmo ragionare, questa era la discussione fino a ieri, le assicuro che questa era la discussione fino a ieri, sull'individuazione di spazi aggiuntivi, sulla, diciamo, l'adattamento degli spazi esistenti e sull'individuazione di risorse per un organico potenziato che affrontasse quantomeno o anche semplicemente la fase emergenziale. Esatto, potenziato come insegnante a contratto, magari su materie non curricolari, musica, guarda, sport, noi, arte, noi cose pensiamo, di questo genere. Questo noi, poteva noi, essere, noi, questo si era detto fino a poco tempo fa, giusto? Allora, diciamo che stava iniziando un dibattito. Noi crediamo che si debba recuperare tempo per la scuola, che è stato tagliato nel corso degli anni. Adesso ci rendiamo conto quanto serve, quanto è importante. Questa era l'occasione per recuperare tempo scuola. Tempo scuola vuol dire ovviamente organici. Lei deve considerare che dal 2008, con i tagli che furono fatti allora, sono scomparse 130.000 cattedre, che è stata penalizzata peraltro in particolare la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Noi paghiamo tante scelte del passato. Adesso non voglio tornare su questioni no, che non torniamo, non torniamo, stiamo storia, però le assicuro, però sì. le assicuro che senza tornare a discussioni tra virgolette del passato, adesso noi avremmo bisogno di quel tempo per la scuola e non ce l'abbiamo. Quindi il ragionamento che noi facciamo è utilizziamo questa necessità che nasce da una tragedia, perché non bisogna dimenticarci che noi abbiamo vissuto e viviamo una tragedia che riguarda migliaia di persone. Dobbiamo però salutarci. Se la soluzione è plexiglass, ecco, mi pare che siamo abbastanza fuori strada e quindi siamo sorpresi quanto voi. E siamo tornati al punto di partenza. Grazie al segretario della tempo si chiamava CGL Scuola, Federazione Lavoratori della Conoscenza CGL, Francesco Sinopoli. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo insieme a Giulia Crivelli e Effetto Mondo.